apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Che sta succedendo? E come che sta succedendo? È chiarissimo, un vampiro sta affondando le zanne nella giugulare della sua vittima. Ecco, questa è un'immagine che ha naturalmente terrificato, assatanato la mia fanciullezza. E siamo stati circondati, noi baby boomer degli anni 50, da figure di vampiri, che erano qualcosa che erano legati comunque ai pochi, ma soldi mostri della nostra fanciullezza. Io avevo in mente naturalmente il più classico dei vampiri, che è quello interpretato da Christopher Lee, che era il vampiro con un fare romantico ottocentesco, ancora quando affondava i denti nel collo della vittima scopriva col mantello, che non bisognava far vedere quell'atto che in sé era metafora di un atto ben più innominabile che l'affondare il dente nella giugulare. Beh, il vampiro oggi è ritornato di grande moda. Improvvisamente i vampiri, che sembravano essere stati sorpassati dagli alieni, dai mutanti, dai mostri spaziali, dai frutti di peripezie genetiche, dai mostri che venivano dal passato, dai mostri del futuro, dalle mostruosità interiori, dalle mostruosità impalpabili, dalle mostruosità inesistenti. Abbiamo visto film in cui il mostro non si vedeva mai, ma tutti avevamo paura. Improvvisamente ritorna fuori il vampiro. Ritorna fuori dalla penna di una brava mamma che, come la Rowling fece per Harry Potter, la Stephanie Meyer fa per il suo vampiretto Edward, una serie di fortunati romanzi per ragazzetti. Quindi l'immaginario fanciullesco, anzi adolescenziale, viene fortemente corroborato nella direzione del succhiatore di sangue. Dopo un regno di inenarrabile terrore durato più di un secolo, il re dei vampiri era stato finalmente scovato nella sua tana su un picco dei Carpazi. Per più di un secolo molti avevano sperato di distruggerlo e tutti avevano fallito. Qui, finalmente, un avversario armato di una profonda conoscenza delle orride forze del male lo distrusse in modo assoluto, definitivo. Ecco, questo è il professor Van Helsing che infila il paletto di frassino nel cuore del vampiro, o che secondo la versione cinematografica salta sul tendaggio, apre la luce e il vampiro si polverizza, naturalmente con effettacci cinematografici sempre più raffinati man mano che si andava avanti nella lettura cinematografica, ma anche romanzesca, ma anche televisiva, del vampiro che ballonzolava da vette di cupo terrore, di gotica tumescenza dell'orrore, fino a rappresentazioni ridicole. Tutti ci siamo mascherati da vampiro, erano delle maschere più economiche. Si comprano dei, perlomeno della mia fanciullezza, anche adolescenza, si comprano quei denti di plastica orribili che vendevano i tabaccai, che si rompevano dopo qualche uso, si spezzavano a metà, però funzionavano, erano ridicoli. Si metteva con i colori a tempera un po' di rivolo di sangue, si era già vampiri, un'infarinata alla faccia, un po' di gel, bastava semplicemente uno straccio nero e si era improvvisamente vampiri, si era appartenenti alla genia di coloro che venivano da un altro mondo, da un'altra epoca, un'altra esistenza, fortemente assatanati di vita e di sangue. Oggi li vedo, i moderni vampiri, sono gli emo che stazionano il pomeriggio a Piazza del Popolo, ragazzetti con le facce bianche, bistrattati da tutte le tribù giovanili, presi a calci da tutti, stanno lì, bivaccano sulle scalette della chiesa caravaggesca, mascherati da vampiri moderni, ma nessuno ha più sangue da dar loro, nemmeno loro spaventano più nessuno. Così almeno sembrò. Migliaia di persone erano state schiave dello sceno culto del vampirismo. Ora esso periva alla sua stessa sorgente. Solo il ricordo rimaneva. Il ricordo della più diabolica e orrida creatura che l'umanità abbia conosciuto. Pensate quanta retorica poi c'era: la più orrida creatura ignobile che l'umanità abbia mai conosciuto. Ecco, quante creature orride e ignobili abbiamo conosciuto prima e dopo dell'avvento di Dracula. Ma Dracula ha un po' come gli emo di Piazza del Popolo questo triste destino, questa nemesi inarrestabile di essere considerato il peggiore di tutti. Non si sa perché, perché poi è pieno di seduzione, è un bell'uomo, le donne in fondo sospirano e ambiscono di essere mordicchiate da quel signore, se ciò non costasse la perdita della serenità e la condanna a una vita eterna che in realtà è una condanna eterna a vivere da non vivi e a cercare di succhiare il sangue degli altri. Beh, esistono molte letture, anche moderne, contemporanee letture, sulla figura del vampiro, e quello cercheremo di fare questa mattina, tra realtà, tra romanzo, tra lettura del profondo, ma una di quelle che più ci ha interessato è Comunque Umani, un libro uscito per la Meltemi di Guido Ferraro e Isabella Brugo. È interessante perché ci racconta quanto dietro alcune figure mostruose, aliene, proprio della nostra formazione spirituale, letteraria, in realtà si celino delle caratteristiche proprio di noi umani. Noi siamo tutti il dottor Jekyll, noi siamo tutti King Kong, noi siamo tutti l'alieno che viene da un altro paese, quindi noi siamo tutti vampiri. In particolare uno degli autori, visto che è diviso a seconda dei capitoli, il capitolo sul mito di Dracula è stato scritto da Guido Ferraro, che è un professore di semiotica e teoria della narrazione all'Università di Torino. Ha scritto molto sul mito, ma anche sulla lettura attraverso supporti del mito non convenzionali, come il cinema, come la letteratura, come il romanzo. Mi è interessato vedere nel capitolo dedicato ai vampiri, scritto dal professor Ferraro, quanto in realtà il vampiro che noi abbiamo subito in mente come figura iconografica non è quello che realmente è il prototipo di tutti i vampiri. Professor Ferraro, noi abbiamo visto che c'è Dracula, che è questa sorta di impalatore turco quattrocentesco famoso per la sua crudeltà, e poi improvvisamente siamo arrivati a un signore ottocentesco con un frac, vestito con questo alone di romantico decadente, di personaggio che ormai non appartiene più nemmeno alla sua epoca. Ecco, c'entra qualcosa con l'idea che oggi abbiamo noi il vampiro, quella che è la sua più illustre e più lontana genealogia? Ma in effetti c'entra e non c'entra, è stata un po' colta anche come un'occasione, direi, perché può essere interessante vedere cosa succede alla fine dell'Ottocento, no? Perché fino all'Ottocento la credenza nell'esistenza, diciamo, reale, no, dei vampiri perdura, arriva fino addirittura ai primi decenni del Novecento. Ma guardi, nelle nostre campagne ancora i contadini sono convinti che esistono delle persone che bisogna pungicare con uno spillone, fargli uscire tre gocce di sangue, perché probabilmente sono qualcosa che assomiglia ai vampiri. Qualcosa persiste come sfrangiamento. Certo, però era detto anche nei libri scientifici, ecco, non solo nelle campagne. Poi, man mano, cioè veniva considerata qualcosa di assimilabile alla licantropia, cioè esistono persone che dovevano nutrirsi di sangue per mantenersi in vita fittizia, così esattamente. Sì, ma ci sono tutte queste credenze che tra l'altro sono diffuse un po' ovunque, no? Gli antropologi hanno cose molto interessanti da dire in questo senso e risalgono veramente a tempi preistorici, però a un certo punto si comincia a non crederci più realmente. È come dire, il vampiro scompare dalla realtà ed entra nell'immaginario, entra nella letteratura e poi diventa addirittura, con il testo secondo me sempre fondamentale che è il Dracula di Bram Stoker, diventa la base per costruire il grande mito della modernità. Cioè, quando le filosofie sanciscono che Dio è morto, sta per morire, rinasce il vampiro. E rinasce, rimuove forse, perché il Dracula è la storia della morte definitiva del vampiro, ucciso da che cosa? Ucciso dalla tecnologia, perché il libro di Stoker è la celebrazione della tecnologia. Siamo 1897, nel momento supremo dell'entusiasmo per la modernità, il nuovo secolo, si tratta proprio di seppellire il vecchio, no? Il mito del vampiro è il mito del seppellimento del vecchio, questo vecchio signore che vive in un castello, che gira di sera vestito di nero, che è il vecchio eroe dell'epoca romantica. Certo, no? Chiaro, con tutto, c'è tutto. Con tutto, le donne. Le selve, la natura, le rovine. Le rovine, tutto, è perfetto, no? È questo che è interessante del mito moderno del vampiro. Andava benissimo perché, tra l'altro, lui stesso nella storia dice di essere arcaico. È bellissimo il fatto che mostri il quadro di quando era giovane e ovviamente viene preso per un suo antenato e lui capisce di essere rimasto fuori dei tempi, no? Allora decide, basta, me ne vado a Londra, che in quel momento era al massimo della modernità. E la storia di Dracula è la storia del mondo moderno in cui il vampiro non ha più posto. Tra l'altro è un testo straordinario dal punto di vista della scrittura, lancia la scrittura collettiva, il blog di cui parliamo adesso, perché Dracula è scritto a mo' di blog, ognuno mette un pezzetto, un frammento, la rete sociale, no, che costruisce una conoscenza che è più forte di quella del vampiro rappresentante appunto dell'Ottocento. Ma infatti, per quanto voglia essere rappresentato come l'impersonificazione del male, della crudeltà e appunto dei sensi di un secolo che sta sparendo e deve sparire, è sempre dotato di un grande fascino. È sempre dotato di un grande fascino, però mentre in quel momento di grande attenzione alla modernità in cui bisognava chiudere assolutamente col passato, questo fascino in fondo tende ad affievolirsi e poi vediamo che ritorna fuori. Nel Novecento il fascino del vampiro pezzo a pezzo ricresce, perché il Novecento poi è, in realtà non è il secolo della modernità, come sappiamo bene, è il secolo dell'ambiguità, no? In cui tutto si confonde, diventa duplice, e questo vale anche proprio per la figura. Ma torniamo proprio ai sistemi di uccisione del vampiro, che è interessante, ne parla anche lei diffusamente nel capitolo del suo libro dedicato al mito di Dracula. L'uccisore dei vampiri, se non sbaglio, è Van Helsing, no? Questo signore che lo insegue con il paletto appuntito. Ecco, usa però dei sistemi che appartengono a ciò che quel secolo diceva di voler rinnegare, perché usa sia il paletto di frassino appuntito da infilargli nel cuore, sia la luce, l'apertura della finestra che lo fa dissolvere, lo fa scomparire. Secondo poi le varie letture, ce n'è una in particolare, mi sembra sia un remake del primo film, in cui il vampiro comincia a decomporsi dalle mani, ancora urla, strilla, la faccia è integra, ma già c'ha le mani scheletrite, quindi c'è questo scheletrimento progressivo. Però usa anche la croce, che in fondo è un simbolo forte, un simbolo che quel secolo non teneva così presente. Ma diciamo che la cosa che può un po' confonderci e un po' stupirci è che la storia di Dracula non è una storia di scienza positivista, perché la scienza positivista è ancora quella dell'Ottocento. La modernità sta nel fatto che la figura di Van Helsing è al contempo quella di un medico che tra l'altro fa questa cosa straordinaria che è la trasfusione di sangue, che è proprio il simbolo, l'opposto del succhiare il sangue del vampiro, la trasfusione, mette il sangue in comune, fare rete sociale anche su questo, no? Ma per salvarsi dall'infezione del vampiro. Sì, però l'idea, mettiamo la vita è un bene comune, questo è il Novecento, questa è la modernità. Basta coi singoli, coi grandi eroi individuali, anche il carattere di eroe è diffuso, ce lo spartiamo insieme, è proprio il modello attuale della rete, è incredibile. Quindi la vittima sacrificale, tanto un cattivo deve per forza morire e fare il cattivo perché il progresso si sviluppi, è proprio questo vampiro cattivissimo che però grazie a lui gli uomini affermano queste grandi novità, queste pulsanti e meravigliose maniere di porsi insieme, di relazionarsi. Il vampiro rimane sempre solo, è l'emblema della solitudine. È solo, quello è il fatto, muore perché è solo. È forte ma è solo, gli altri sono deboli ma fanno rete e vincono. Infatti le ultime letture cinematografiche dei vampiri vogliono che i vampiri diventino una stirpe, addirittura poi ci sono le contaminazioni moderne, vampiri contro lupi mannari, quindi tutti i mostri dell'immaginario poi si ritrovano insieme. Poi i vampiri fanno stirpe, diventano una stirpe, ci sono i vampiri buoni, ci sono i vampiri mezzi vampiri, semi vampiri, quelli che attaccano i vampiri ma hanno qualcosa di vampiro in sé. Poi lentamente la purezza di questo mito, che come lo descrive lei è è basico, è perfetto, sembra quasi un parametro esatto per descrivere il passaggio da una sensibilità all'altra, si inquina fortemente e assume proprio un carattere modernissimo. Oggi cos'è diventato il vampiro e cosa resta di tutto questo? Ma naturalmente il discorso è molto complesso, anche perché ci sono tanti livelli, tanti aspetti, e la storia della cultura non è mai che sembra che le cose cambino, che qualcosa muoia, poi invece sotterraneamente continua, magari su un altro livello culturale. Non è che Beethoven impedisce che si continuino a comporre i valzer. E quindi esiste anche una cultura popolare che fa uso di certe figure in una forma magari semplificata, perché poi funziona. Una delle cose interessanti è la connessione tra la figura del vampiro, che era immaginata come il vecchio romanticismo, basta, con invece proprio un carattere neoromantico che sappiamo bene che è... continua a essere molto presente, no? Nella nostra, ma infatti, realtà. Nel romanzo proprio l'iconografia del vampiro, come era vestito? Era vestito come un eroe romantico, poi lentamente è andato cambiando, ma girava sempre, mi sembra, una specie di frac con un mantello nero. Certo, con cui ma era recente quando è uscito Dracula, era recente il vampiro di Polidori, dove il vampiro è semplicemente il grande seduttore e viene quasi esaltato, no? Come tale. Beh, ci sono anche, c'è, anche un, di nuovo, c'è anche un filo di sensualità amorosa, erotica nel vampiro, le sue amanti, i suoi amori, il suo bacio stesso, che è un bacio. Sì, forse il caso più interessante, poi è recente, anche se non recentissimo, è il Dracula di Coppola. Aha, certo, una grande versione dove è proprio indecidibile, non si sa neanche a quale genere cinematografico attribuire il film, perché è contemporaneamente film dell'orrore e grandissima storia d'amore, no? Questo personaggio è davvero duplice e abbiamo proprio la sensazione della complessità della postmodernità, dove abbiamo capito che l'identità è in qualche modo proprio in uno spazio di mezzo tra la propria identità privata e la propria identità pubblica, perché Dracula è un mostro per gli altri, ma è un dolcissimo amante nel privato, ed è tutte e due le cose, no? In questo caso, quindi non è sì, romanticismo sì. Quello là finito nell'Ottocento. La figura di Mina, questa amata di Dracula, che sembra un paradosso. Dracula, almeno nella versione primordiale che noi conosciamo, sì, le donne le prendevano per sgozzarle, erano tutte, scappavano inorridite di fronte a Dracula. Poi Dracula diventa anche il modello. È tenebroso, lievemente sadico, ma allo stesso tempo ammantato di questo fascino dato per essere un uomo d'altri tempi, che però diventa anche appetibile da un punto di vista erotico. Sicuramente questa componente c'è sempre stata, può essere usata in modi diversi e... Nell'insieme questo è uno dei grandi esempi del fatto che la cultura lavora come una continua rielaborazione di materiali che contengono tutta una serie di virtualità, no? E volta a volta se ne attualizzano alcune. Questo è affascinante proprio nella enorme quantità di realizzazioni di questo tipo di storia. Sento un'ultima cosa, professore, come si spiega che oggi invece Dracula sia improvvisamente diventato un adolescente? Dracula, il grande vecchio che abbiamo definito in questa fase di passaggio tra fine 800 e avvento del 900, con tutte le sue contraddizioni, passato un secolo, diventa improvvisamente una sorta di serpeggiare fra adolescenti, tribù giovanili che si ispirano ai vampiri, figure di eroine, di eroi di telefilm che sono vampiri ma sono giovanissimi, non sono più i rappresentanti di un mondo antico ma sono quasi le avanguardie di un mondo che verrà. Sì, credo che ci siano più o meno molti degli elementi del Dracula che conosciamo, insomma, in tante versioni precedenti. Ovviamente sappiamo che questo non è il punto di arrivo, è uno dei tanti punti di passaggio, avremo altre versioni meno adolescenziali, però questo ci sottolinea l'attualità, perché se no non sarebbe stato ripreso dagli adolescenti, no? Questa figura è tuttora con le sue caratteristiche centrale nel nostro immaginario e le sue virtualità possono essere tranquillamente riattualizzate senza nulla perdere di quello che tutto sommato è poi il nucleo della figura tradizionale. Questo conferma in conclusione proprio la tesi del suo libro: qualunque mostro in realtà è comunque anche in gran parte, se non in massima parte, anche umano. Quindi Dracula, essendo umano, non ha queste caratteristiche che vanno oltre le nostre capacità umane di riproporci continuamente. Certo, è sempre un modo per riflettere su noi stessi, sulla parte negativa di noi, sull'ambiguità che c'è dentro di noi. La figura del vampiro da questo lato viene benissimo. Grazie, professor Ferraro. Rino il vampiro. Nel paese del vampiro Rino tutti indossano armatura di metallo non fino. Ad ogni morso di Rino un dente cade per sempre. Ieri Rino azzannava le armature inseguendo il fato. Oggi Rino è sdentato. Ecco, sapevo che prima o poi sarebbe riapparso, sarebbe rimerso, sarebbe stato revocato come appunto per un vampiro. Questo è Mauro Petrarca. Mai ve lo feci ascoltare in questa fascia oraria, ma Petrarca era diventato uno degli elementi cult del Melog che ci precedette, quello della mattina alle 8:30. Petrarca ha composto ad hoc, come faceva spesso, lo faceva anche tutti i giorni, una sua canzone sul vampiro, sottolineandone gli aspetti grotteschi, gli aspetti legati al paradosso di un signore che vive, che si muove nel mondo della civilizzazione, nel mondo moderno, con questi denti, con questo costume così antico, così fuori del suo tempo. Il suo essere polveroso lo rende già morto ancor prima che estragga fuori gli orpelli della sua orrifica capacità di succhiarci sangue. Mauro Petrarca è l'essere più adatto a parlarci di vampiri, è un poeta cimiteriale. È un uomo che vive nel disfacimento della morte. Tutta la sua ispirazione poetica nasce da sepolcri, da tombe, da luoghi in cui i morti dovrebbero giacere tranquilli, ma in realtà, nel caso del vampiro, si alzano inquieti a volte alla ricerca dei vivi, per invidia di quella vita che loro devono strappare giorno per giorno, anzi notte per notte, succhiando loro il sangue. Avremo Petrarca, avremo altre letture eterodosse del vampiro, avremo i vampiri per poterci deliziare le nostre notti insonni. Abbiamo fatto un brusco salto tra le vampiresche rappresentazioni che dovrebbero sollevarci un senso di orrore, un senso di raccapriccio, anche un senso di schifo, perché il vampiro in sé dovrebbe essere un essere schifoso. Nelle sue metamorfosi, nelle sue trasformazioni, passa attraverso il pipistrello, passa attraverso il topo, è il sorcio. Quando nei film più recenti l'effetto cinematografico ci rende in maniera più realistica l'orrore della metamorfosi, ci sono dei vampiri terrificanti con una tripla mascella, sono dei mostri veramente brutti, molto lontani dall'iconografia romantica di cui abbiamo parlato con il professor Ferraro, del vampiro ottocentesco, l'essere che ormai è testimone di un'epoca che non c'è più. Ma anche la nostra epoca, l'epoca in cui stiamo vivendo, ha delle declinazioni molto varie, molto vicine e affini alla figura del vampiro. Una di quelle l'abbiamo lasciata come accenno in fine della prima parte, era il vampiro sdentato, sfigato, sfortunato, anche lui incapace di gestire il proprio tempo, partorito dalla mente del cantore cimiteriale Mauro Petrarca. Petrarca per la prima volta riappare ai microfoni di Melog 2.0 in questa versione di Mezza Mattina. Petrarca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ecco, Petrarca, non è detto che tutti gli ascoltatori sappiano chi tu sia e qual è stata la tua preponderante presenza nella trasmissione delle edizioni precedenti. Definisciti velocemente, tu sei molto vicino al vampiro perché sei un poeta reso ormai celebre, per questo da me poco frequentato ultimamente, dalla televisione. Però quando ti conobbi qualche anno fa, eri un ragazzo che vestiva di nero, si truccava quasi da vampiro e andava in giro per cimiteri per ispirarsi a una poetica molto affine a quella che in fondo è l'humus su cui nasce il vampiro, è vero? Sì, credo di sì, c'è molta affinità. Grazie a Melog questa mia predisposizione insomma ha trovato modo di diventare più continuativa e costante. Sì, sono responsabile del fatto che l'umanità oggi conosca il poeta cimiteriale Petrarca, che gira con la cornacchia impagliata e la mette nelle mani di Simona Ventura e lei non ridisce. Questa è la parte televisiva. Ma torniamo al Petrarca della prima esperienza poetica. Ecco, dalla provincia di Chieti, dove stai te esattamente? Provincia dell'Aquila. Dell'Aquila, provincia dell'Aquila. Tu, ragazzo con aspirazioni fuori dal suo tempo, ha cominciato a girare per cimiteri, ha cominciato a ispirarti. Ricordo il tuo primo canzoniere macabro, che era molto vicino a questa idea dei vampiri, ricordo di un figlio che mette il padre, il cadavere del padre, come spaventapasseri al suo cimitero. Sì. Sei stato un precursore del cinema più splatter che oggi va per la più. Precursore, ma a mia volta ho sempre avuto dei forti riferimenti e credo di aver assemblato in maniera adeguata tantissimi elementi che già esistevano soprattutto in letteratura, in cinema, e di aver fatto questo grande passo di trasporre tutto in canzoni. Ecco, questa è una cosa abbastanza nuova forse, però a mia volta ho attinto a piene mani a repertori già esistenti. Senti, il vampiro in sé è un essere maledetto per sua natura, abbiamo già capito che oltre a essere maledetto è anche ai margini della società. Nessuno vorrebbe il vampiro come amico, nessuno lo vorrebbe vicino. La più divertente delle attività che si possa fare con un vampiro è ammazzarlo, infilargli il paletto di frassino, accendere la luce, mettergli l'aglio al collo, vederlo dissolversi e polverizzare. Ecco, tu, essere umano che ha scelto una miss vampiresca, tu vai in giro vestito come un vampiro, truccato, con la faccia bianca, ti ho visto girare per strada, ecco, non rischi che qualcuno, e già l'ha rischiato in qualcuna delle tue vicende passate, quando ti mandavano negli stadi a portare sfiga nelle partite alla squadra avversaria, con un rischio che la gente ormai ti consideri lo stereotipo del male, lo stereotipo di quella fetta oscura della nostra civilizzazione che non vogliamo mai incontrare nella vita? Sì, il rischio è molto alto, anche se c'è da dire, e questo mi rassicura un poco, che tutto sommato il vampiro, per quanto possa essere mal visto, al tempo stesso è invidiato, perché il vampiro rappresenta un po' la vittoria sulla morte e che l'uomo da sempre anela. Sì, ma vampiro, a caro prezzo, è una vittoria fittizia, perché lui deve... maledice il vampiro in tutta la letteratura, tutto il film, poi in tutti i film, poi abbiamo un esperto che ce lo racconterà, maledice la sua condizione. Sì, è orgoglioso di essere vampiro, che è il signore della notte, ma della notte appunto, non può vivere una vita normale. Se mai il vampiro si innamorasse di una donna della specie umana, deve azzannarla e condannarla come lui a questa sete inarrestabile. Poi ci sono le versioni moderne, edulcorate, delle mamme scrittrici per ragazzini allevati e omogenizzati, sono vampiri buoni, vampiri vegetariani, vampiri che bevono il sangue degli animali e si fanno di sanguinaccio e non di sangue umano. Beh, questa mi sembra che sia una lettura non attinente al tragico personaggio di Mauro Petrarca, che la gente vede per strada e prende a sassate. Beh sì, effettivamente, probabilmente ecco, è l'epoca sbagliata, l'Ottocento romantico avrebbe dato altro tipo di lettura dei miei lavori o del mio comportamento, e in quest'epoca qui forse ecco, storie tipo Rino il vampiro potrebbero essere un poco più in linea, perché mantengono un certo fascino del personaggio vampiro, ma al tempo stesso lo dissacrano e lo rendono semplice e alla portata di tutti. Li vediamo spesso nei cartoni animati anche per bambini, li vediamo parodistici, li vediamo in situazioni addirittura comiche ormai i vampiri, e questa trasformazione o deformazione del personaggio tiene questo vampiro un po' più in linea con i nostri tempi, lontani dai tempi romantici. Abbiamo capito allora, che salutiamo così Mauro Petrarca, che il vampiro, se oggi deve sopravvivere, deve limarsi le zanne e deve, se possibile, darsi un po' di fondotinta per essere un po' meno palliduccio, un po' meno terrificante. Potevo vedere nel chiaro di luna l'umidità che splendeva sulle sue labbra scarlatte e la lingua rossa che passava sui suoi denti bianchi ed aguzzi. La sua testa scendeva sempre più in basso. Quando le labbra giunsero a portata della mia bocca e del mio mento, sembrava che stessero per attaccarsi alla mia gola. In quell'istante, io fui consapevole della presenza del conte. Come osate toccarlo? Indietro vi ordino! Quest'uomo appartiene a me! Sembra facile parlare di vampiri, di iconografia del vampiro, e devo dire che oggi, alla luce degli anni passati dal vampiro che abbiamo evocato all'inizio della nostra trasmissione, il vampiro ottocentesco con il frac e il mantellone, è cambiata tantissimo l'iconografia del vampiro, e oggi è difficile capire chi sia veramente il vampiro. Vediamo se ci aiuta questa mattina l'amico Antonio Tentore. Antonio, buongiorno. Buongiorno a te. Senti Antonio, facci un veloce escursus di come è cambiato, come sta cambiando. Io sono arrivato oggi ai vampiri vegetariani che danno piacere alle mamme e ai bambini. C'è stato un passaggio drastico, diciamo. Sì, quelli di Twilight, ovviamente il riferimento è il film Twilight, che è tratto da questa serie di romanzi, diciamo, horror rosa, horror versione Blue Moon praticamente, di questa scrittrice che tra l'altro sono best seller, sono anche scritti... Piacerebbero a Moccia, bene. Diciamo, Moccia la sua futura espansione poetica potrebbe legare ai Lucchetti anche paletti sì, di frasi. Sì, no? Sì, sicuramente, perché comunque quello è, no, il bersaglio, l'obiettivo della scrittrice è sicuramente... Stefan Meyer è questo e ha raggiunto ovviamente quello che si proponeva. Ma il film non è brutto in realtà, perché comunque è un'ennesima variazione sul tema. Certo, chi ama i film di vampiri che, no, classici, che è sicuramente nominato prima, non rimane molto soddisfatto. Ci sono anche i vampiri cattivi in Twilight. Ci sono i vampiri cattivi che ovviamente si scontrano con quelli buoni, sempre c'è una donna di mezzo, una ragazza in questo caso. Niente da che vedere con un vampiro buono, però duro, che è Wesley Snipes nella serie Blade. Ecco, questo è un vampiro, c'è una crudeltà di fondo sicuramente molto più interessante, come anche presente anche in Underworld, per esempio, anche lì un'altra serie di questi ultimi tempi, in cui comunque insomma i vampiri sono visti senz'altro non in maniera edulcorata. Underworld è un altro filone che poi si può insomma assimilare a questi mostri tutti contro tutti in pratica, ossia fanno parte, non lo so, anche hanno fatto recentemente Aliens contro Predator per esempio, ossia sono queste contaminazioni all'interno del genere che hanno poi un loro riscontro, anche un loro pubblico. E che poi in fin dei conti, se ci fate caso, riprende un po' le tematiche di Buffy, per esempio, l'Ammazza Vampiri, quella serie TV molto famosa e di successo con Sarah Michael Gellar. Non vi ho sentito arrivare. Fate attenzione a come vi radete. È più pericoloso di quanto riteniate. Le lettere che vi ho chiesto, le avete scritte? Ho eseguito gli ordini di Dracula. Ho scritto 3 lettere. Allo studio, alla famiglia e alla beneamata Mina. Non ho detto nulla delle mie paure, poiché il conte le leggerà sicuramente. Ora so di essere prigioniero. Melog 2.0. Non abbiate timore di me. Smettetela. Tu esci, drago, sta via, Zimmele. Via, Zimmele. Dio mio, ma chi siete? Io vi conosco. Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti. Più volte avevo detto nel corso di questa trasmissione che il vampiro nel suo essere abietto, essere schifoso, essere ai margini di ogni società, di ogni tempo, in realtà forse proprio per queste sue caratteristiche mantiene un forte fascino, una forte sensualità. Il vampiro è sempre accostato, non potrebbe essere altrimenti, in tutte comunque le versioni cinematografiche, in tutte le sue mutazioni corporee, a donne affascinanti, che lo temono, che lo fuggono, ma allo stesso tempo ne sono fortemente attratti. Io non so se sia questo esattamente il caso di Cristiana Storri. Cristiana, buongiorno. Ciao. Dunque, Cristiana è una scrittrice vampirologa, ha scritto un'antologia per Mondadori, Anime Nere Reload, 22 racconti che esplorano l'abisso delle aberrazioni umane. Ma in particolare mi sembra che il vampiro sia al centro della tua attenzione letteraria e forse anche del tuo immaginario personale. Sì, diciamo che il vampiro è una creatura che mi ha sempre affascinato fin da piccola. Beh, poi io sono sempre stata appassionata di horror, quindi chiaramente i mostri mi piacciono. Ma intanto il vampiro mi piaceva perché da Bram Stoker, comunque Dracula, è una creatura nobile, diciamo. Diciamo che è il più appetibile dei mostri perché ha una sua natura umanoide, il mostro è mostro, fa schifo. Il vampiro è mostro, ma quando è uomo è anche un bell'uomo, no? Sì, in effetti pensandoci il vampiro vampiro credo sia l'unico mostro che si veste in modo decente, che è dotato di un certo charme, perché adesso a me piacciono anche gli zombie, però gli zombie si vestono davvero malissimo, se ci pensiamo. Danno l'idea che emanino un cattivo odore. Il vampiro in fondo è asettico nel suo essere cadavere, ma cadavere ben conservato. È brutto solo quando si trasforma, ecco, quello sì è brutto. Quando... Sì, anche perché pensandoci, cioè, in fondo il vampiro è l'unico mostro che quando muore lascia un bel cadavere. A parte che intanto non muore mai, a meno che non venga ammazzato dall'ammazza vampiri di turno. Però quando, un esempio, uno zombie se muore lascia questo ammasso di budella e di frattaglie. Il vampiro si dissolve al sole, diventa sì, cenere. Basta, quindi... il bidone aspira tutto e non rimane nulla. È ecologico nella sua scomparsa. È pulito, infatti. E... però diciamo che, ecco, a me ha sempre affascinato, anche al punto che quando mi ha proposto Alan D. Altieri di partecipare a questa antologia sulla crudeltà, che è appunto Anime Nere Reloaded, io ho pensato di parlare di vampiri. Solo che poi c'è stato un piccolo problema, perché in fondo, se ci pensiamo, il vampiro, almeno a mio parere, non è un essere crudele. Beh, oddio, non è che... Ma guarda, ti dico, ci ho riflettuto a lungo. Che vada sgozzando e succhiando sangue così per fare del bene all'umanità. Sì, non è un bravo ragazzo, però il problema è che io ho cercato sullo Zingarelli la definizione di crudeltà e dicevano che comunque l'essere crudele è quello che fa il male fino a se stesso. E la cattiveria, proprio la cattiveria gratuita è la crudeltà. E se noi ci pensiamo, comunque il vampiro uccide perché è un predatore che succhia il sangue per vivere, in fondo. Beh, anche lo zombie, allora, scusa, lo zombie sbudella e mangia budelle umane perché sennò altrimenti non potrebbe vivere. Tutti i mostri, allora, parte alcune rare eccezioni, anzi, alcune numerose eccezioni, gran parte dei mostri, diciamo, che fa il mostro perché non c'è alternativa in un mondo di umani. Sì, non alternativa. Infatti io, allora, ci ho pensato, ho detto, qui non mi conviene parlare di mostri autentici, perché in fondo il mostro, da questo punto di vista proprio dello Zingarelli, non è crudele. Quindi andavo fuori tema nell'antologia. Quindi con questo tu sei messa a posto la coscienza nel tuo sogno profondo di vampiri, ti senti con possibilità di appagamento. Ma sì, no, sì, ecco, è vero, non mi sento in colpa, diciamo così. No, diciamo che così, a quel punto io ho pensato, più che di mostri autentici, di parlare di giovani finti, perché ho pensato a un altro tipo di vampirismo, che è comunque il vampirismo psicologico. Nel senso che nella nostra società, cioè, diciamo, noi abbiamo sempre in mente il classico vampiro ottocentesco, quindi un vampiro romantico, un vampiro che si innamora, che ha dei sentimenti. Però in fondo, per parlare invece del nostro mondo, che nei miei racconti a me piace parlare appunto delle paure quotidiane, in fondo la nostra società dei consumi, la grande paura che ha è quella di diventare superficiali, indifferenti, anaffettivi. E quindi io ho pensato di parlare di giovani finti, quindi questi vampiri che alla fine sono ragazzi viziati che si vestono Dolce Gabbana, che guardano un po' le loro prede come si guarda il nuovo modello di iPod in vetrina. Cioè i tronisti sarebbero i nuovi vampiri, ma non li vedo così cruenti nella loro... li vedo piuttosto passivi. Io li vedrei più, se vogliamo seguirti nella tua ricerca, ma poi questo è personale, la mia lettura... Il moderno vampiro è colui che ti pone sempre la sua angoscia esistenziale, la sua problematicità, che è sempre al centro di ogni discussione, che ti impone il suo martoriato esistere. Quello sì che è il vampiro, che ti porta via l'anima, che non c'hai nemmeno tempo di poter capire dove infilargli il paletto che già ti ha portato via ogni vitalità. Grazie Cristiana, ma adesso passiamo veramente alla robetta pesante e l'abbiamo lasciata in coda proprio per questo. Non c'è vita in questo corpo. Ma voi vivete? Che cosa siete voi? Io devo sapere, dovete dirmelo. Io sono niente, senza vita, senza anima. Cosa volete dire? Odiato e temuto, sono morto per tutta l'umanità. Ascoltatemi. Io sono il mostro che gli uomini che respirano bramerebbero uccidere. Io sono Dracula. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Riccardo, lei farebbe parte, o perlomeno organizzerebbe, o perlomeno sarebbe il testimone vivente di una tenue sopravvivenza di persone che, non dico che sono vampiri, che siano vampiri, ma che in qualche maniera vivono come vampiri. Cos'è esattamente il vostro vampiripavia.com? Beh, Allora, fondamentalmente è un sito di gioco di ruolo. Mi spieghi nello specifico cosa hanno a che fare i vampiri in questo gioco di ruolo e poi come si svolge nelle sue varie fasi? Bene, allora, il gioco di ruolo di vampiri nasce in America, dalla casa editrice Whitewall, che pubblica questo gioco di ruolo, in principio The Masquerade, adesso rinnovato come The Requiem. Il gioco di ruolo è fondato su questa società di vampiri parallela alla società umana. E vabbè, come esattamente è nella narrazione cinematografica degli ultimi filoni, i vampiri nella esistono. Nella narrazione classica. Sì, sì. Si mantengono. Come può essere un Blade. Ecco. Esistono, hanno capito che si può sopravvivere senza uccidere persone, quindi si costruiscono una sorta di plasma artificiale, cercano di convivere con gli uomini. Sì, anche se il vampiro del gioco di ruolo è molto più cacciatore, è molto più legato a una cosa che viene chiamata bestia interiore. Cioè, fondamentalmente il vampiro del gioco di ruolo è un mostro. Ma quindi non che vive una spirale. Nella più classica delle versioni, quindi. Sì, però che vive una spirale che vede questa sorta di contrapposizione tra la residua umanità che ha e questo precipitare verso la bestia. Ma lui è pentito poi quando ritorna umano di quello che ha fatto nella fase vampiresca? Non c'è un ritorno all'umanità nel senso di mortalità, ma a un concetto di comportamento umano. Diciamo, si pone il problema umanamente, cioè guarda cosa ho fatto stanotte, ho sgozzato 70 signori. Sì, anche se per molto come concetto è molto più nutrimento, anche se diciamo che è molto più vasto. La società dei vampiri nel gioco di ruolo è suddivisa in clan, cioè diversi origini. In lotta tra loro spesso, probabilmente. Spesso sì, anche se il clan è più viene definito sangue, cioè vampiri appartenenti allo stesso tipo. Come i gruppi sanguigni, diciamo. Lo semplicizzo. Sento una cosa, ma poi qualche volta accade che i giocatori di ruolo online... Questo gioco lei lo fa da quando c'ha 9 anni, quindi sì, è abbastanza... Vampiri da una decina d'anni, i giochi di ruolo in generale sì, da quando ne ho 9. Ecco, poi succede mai che voi vi incontriate anche nella vita concreta e magari... Sì. In quel caso cosa fate? Vi vestite da vampiri oppure... Sì, esatto. Si chiama gioco di ruolo dal vivo e ad esempio noi del nostro sito lo facciamo un paio di volte all'anno. Io ho visto cose simili con persone legate al mondo della fantasy che si vestono da guerrieri. Esatto, è fondamentalmente la stessa cosa. Al posto che metterci in armatura con spade di gomma piuma o di lattice e picchiarci tra di noi, noi fondamentalmente interpretiamo i vampiri in questa società. E dove vi riunite? Beh, dipende. Ultimamente abbiamo organizzato un live con un centinaio di persone affittando una vecchia villa. E voi tutti con i denti, con tutti gli orpelli da vampiro reali? Sì, a seconda della tipologia del vampiro. Ci sono vampiri molto simili agli uomini, dall'apparenza normale. Vampiri. Sento una cosa, una spiegazione tecnica. Io sono ancora legato a quei terribili denti di plastica che si compravano nelle tabaccherie degli anni 60-70. Sì. Oggi si è evoluto anche la protesi dentaria. Certo, adesso ci sono protesi fissate con l'adesivo per denti. Esattamente come denti normali. Sono protesi realizzate anche che si inseriscono come si può inserire una dentiera. Quindi lei potrebbe andare in giro con i denti da vampiro tranquillamente anche andando a lavorare nel quotidiano? Ma so che ci sono persone che se li fanno anche limare e ricostruire, ma queste sono persone un po'... E poi non si torna indietro però? No, penso che con la seconda operazione si possa ritornare tranquillamente come prima. Sono utili per mangiarsi le bistecche. Quindi vi riunite vestiti da vampiro e poi... impersonificate le trame romanzesche. Interpretiamo, sì, è una sorta di teatro in costume, con una trama organizzata da alcune persone definite master che organizzano il gioco, organizzano le trame. Non so se probabilmente la gente ha giocato anche a Invito a cena con delitto. Uh-huh, ho capito. Che sì. È una cosa che può ricondursi molto. In cui c'è una trama, una storia che magari c'è dietro dal sito, piuttosto da una trama complessa che dura da anni. E nella serata ci si riunisce per appunto giocare. L'ultima cosa, Riccardo, che sì. Tutti ci chiediamo. Fino a dove arriva questo gioco? Il morso poi, ve lo date davvero? Assolutamente no, nel gioco di ruolo dal vivo è assolutamente vietato il contatto. Quindi non si torna a casa con i lividi? Non si torna con i lividi come quando la nostra sfortunata generazione doveva preoccuparsi dei segni che lasciavano i baci sul collo nei nostri affocati preliminari? Magari alla sera, dopo aver finito di giocare, noi ci si ritrovi per chiacchierare, per bere, per brindare e qualcosa ci scappa. E vabbè. Spero che anche i vampiri abbiano questa possibilità. Grazie Riccardo, grazie a tutti i vampiri in ascolto. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22.